Comunicazione del 13 febbraio 2012. Allora, sospendiamo per un attimo il riepilogo e eventuale proseguimento su Benjamin che faremo la volta prossima. Allora, in realtà nel pensiero occidentale, nella storia del pensiero occidentale, diciamo dalla condanna delle immagini di Platone in poi, ci sono degli altri approcci sulla questione dell'immagine, di cui uno in particolare è quello di Nietzsche, contenuto principalmente nella sua opera giovanile, anzi nella sua prima opera, che è La nascita della tragedia, pubblicata nel 1876, cioè quando Nietzsche aveva 32 anni. Però è un'opera che forse è la più travagliata tra le opere di Nietzsche, perché ci ha messo circa 10 anni per riscriverla e pubblicarla. Ovviamente è basata sulla sua tesi, insomma, ma... perché mi sembra interessante prendere in esame almeno brevemente questa opera, perché mentre noi abbiamo parlato per tutto l'anno di una polarità tra immagine e parola, in quest'opera Nietzsche presenta un'altra polarità, oltre a due categorie che avranno molta fortuna, in realtà non sono originali sue, lui le ha soltanto in qualche maniera riscoperte, riscritte dalla cultura greca, insomma. Ma... e sono quelle tra immagine e musica. Se leggiamo proprio l'inizio di quest'opera, ripeto che era già pronta nel 1870-71, quindi quando lui era ancora più giovane, è stata pubblicata solo 6 anni dopo, insomma nel 1876, fu un'opera che creò molto scandalo nel mondo accademico tedesco in quegli anni, e però in qualche modo è una delle opere che hanno, come dire, la cui eco si sente ancora adesso. Addirittura Giorgio Colli, nella nota introduttiva all'edizione italiana, quindi negli anni 60, addirittura scrive se lo trovo. Addirittura scrive: così i filologi cominciano soltanto ora ad accorgersi che un secolo fa è stata scritta La nascita della tragedia. Questo veniva scritto 50 anni fa, e intorno al 1960, però insomma è vero che è stata, come probabilmente gran parte del lavoro di Nietzsche, è stato ignorato anche quando è stato, diciamo, discusso, nel senso che non si è capito bene o si è travisato quello che lui voleva dire. Comunque, se proviamo a leggere il primo paragrafo di quest'opera, ci rendiamo conto forse del perché può essere interessante per il nostro lavoro di quest'anno. Leggiamo: avremo acquisito molto per la scienza estetica quando saremo giunti non soltanto alla comprensione logica, ma anche alla sicurezza immediata dell'intuizione che lo sviluppo dell'arte è legato alla duplicità dell'Apollineo e del Dionisiaco, similmente a come la generazione dipende dalla dualità dei sessi. attraverso una continua lotta e una riconciliazione che interviene solo periodicamente, apollineo e dionisiaco. Questi nomi noi li prendiamo a prestito dai greci, che rendono percepibili a chi capisce le profonde dottrine occulte della loro visione dell'arte, non certo mediante concetti, bensì mediante le forme incisivamente chiare del loro mondo di dei. Alle loro due divinità artistiche, Apollo e Dioniso, si riallaccia la nostra conoscenza del fatto che nel mondo greco sussiste un enorme contrasto, per origine e per fini, fra l'arte dello scultore, l'Apollinea, e l'arte non figurativa della musica, quella di Dioniso. I due impulsi così diversi procedono l'uno accanto all'altro, per lo più in aperto dissidio tra loro, e con un'eccitazione reciproca a frutti sempre nuovi e più robusti, per perpetuare in essi la lotta di quell'antitesi che il termine comune arte solo apparentemente supera. Finché da ultimo, per un miracoloso atto metafisico della, virgolette, volontà, chiude virgolette, ellenica, appaiono accoppiati l'uno all'altro e in questo accoppiamento producono finalmente l'opera d'arte altrettanto dionisiaca che apollinea della tragedia antica. Dunque, quello che ci dice in questo passo Nietzsche è che quello che noi chiamiamo arte nell'antica Grecia aveva due manifestazioni diverse, in linea di principio opposte, quasi inconciliabili. Una era l'arte della creazione di immagini. Attenzione, quale arte prende qui, dice, come esempio della creazione di immagini? Non quello che noi ci aspetteremmo, e cioè la pittura, ma la scultura. In parte perché della Grecia, della produzione di immagini greca, ci è rimasta quasi solo quella, e anzi pochissima anche di quella, perché gran parte della cultura greca noi la conosciamo solo attraverso copie romane. Comunque qualche cosa di originale c'è anche nella diciamo, statuaria greca. Ma credo che la vera ragione, cioè che ci sia un'altra ragione meno superficiale, meno, diciamo, meno, insomma, contingente di questa, no? Quindi da un lato l'arte figurativa, l'arte della creazione di figure, di immagini in forma di materia, di marmo, insomma, scolpito, quindi la scultura. E questa è l'arte di Apollo, è l'arte che i greci attribuivano ad Apollo, i greci antichi. E l'altra arte invece, quella che gli sarebbe opposta, è l'arte che lui attribuisce, che anche i greci attribuivano a Dioniso, che è la musica. Come le definisce? Vediamo. No, niente. Non... L'arte dello scultore, l'arte apollinea, e l'arte, dice, non figurativa della musica, quella di Dioniso. Secondo Nietzsche, queste due arti hanno proceduto in conflitto, ma per lo più, dice, in aperto dissidio tra loro, però con una eccitazione reciproca. Quindi erano diverse, però si eccitavano come reciprocamente, no? Però sempre rimanendo separate, per perpetuare in essi la lotta di quell'antitesi che il termine comune arte supera solo apparentemente, soltanto apparentemente, dice Galare. Però, dice, a un certo punto, invece, compare in Grecia un'opera d'arte, una forma d'arte nella quale queste due forme improvvisamente si fondono e diventano non più due ambiti totalmente separati, quindi della cultura, della percezione, dell'esperienza estetica, diciamo noi, estetica non potevano dire i greci che non avevano nulla di simile alla nostra visione di estetica, però insomma... E esiste una forma d'arte in cui queste due modalità, queste due polarità, improvvisamente appaiono non solo giustapposte una vicino all'altra, ma appaiono combinate, appaiono fuse in qualche modo, e questa opera d'arte è la tragedia. E questo è tutto l'oggetto di questo libro, di Nietzsche, che infatti si chiama La nascita della tragedia, Das Geburt der Tragedie, in altro caso, so così, ma di, vedi che ho sbagliato, Die Geburt, la nascita è femminile, Die Geburt der Tragedie, la nascita della tragedia, femminile come in italiano. Allora, naturalmente, ai tempi in cui Nietzsche scrisse questa, in quel lungo campo di una serie di equivoci, l'opera di Nietzsche non è interessante oggi per le ipotesi che formula sulla nascita di questa tragedia, perché all'epoca le conoscenze della filologia, Nietzsche si era formato come filologo, non come filosofo, aveva studiato anche filosofia, ma il suo campo di studi era inizialmente, quando era giovane, la filologia. Poi certamente, infatti la cattedra che lui ottiene a Basilea è una cattedra di filologia, cioè di studio dei testi, studio scientifico, razionale, eccetera, dei testi greci, questa è la filologia. Però in realtà poi proprio negli anni in cui pubblica questo libro, praticamente Nietzsche rompe, cioè critica la tradizione della filologia classica, perché non gli sembra che questa filologia abbia più niente da dire, anche se ovviamente gli rimane per tutta la sua vita un'attenzione alla filologia, cioè un'attenzione alla cura e all'amore del testo, però poi lui non fa quello che non facevano i filologi dell'epoca e forse neanche i filologi oggi, forse oggi la filologia è andata molto più avanti o comunque si è in qualche maniera dissolta, quindi oggi ci sono molte, come dire, figure più miste, insomma, tra filologi, filosofi, eccetera, rispetto ai tempi, come dire, di Nietzsche, ma insomma, quindi da un certo punto in poi Nietzsche comunque si dedica prevalentemente alla filosofia, pur tenendo conto, però insomma questa era la sua formazione. Quindi alcune delle ipotesi che lui fa sulla nascita della, insomma, tragedia sono poi fantasiose, non hanno, diciamo, riscontro, ma non è questo quello che conta in questo libro, diciamo, di Nietzsche. E in fondo non conta neanche tanto la sua, come dire, l'obiettivo polemico che lui ha nei confronti di questo libro, perché proprio facendo filologia, ripeto, bisogna pensare gli anni in cui, quindi negli anni intorno alla metà dell'Ottocento, figuriamoci, in cui però la filologia era già molto sviluppata, eccetera, eccetera, perché comincia nel Settecento questa scienza nuova, questo modo di studiare in modo più razionale, scientifico, sistematico i testi, e quindi anche ricostruire il tentativo dell'immagine di una cultura attraverso i suoi testi. Questa è la filologia. La filologia classica, evidentemente, è la filologia del mondo greco e del mondo romano. Il mondo greco e il mondo romano, cioè il mondo classico, rimangono a lungo quasi sepolti nella coscienza dell'Occidente per tutto il Medioevo, dopo il crollo e la caduta dell'Impero Romano si conosce poco, sì, si leggono i testi, eccetera, ma insomma non c'è questa attenzione verso il capire come era fatto questo mondo, eccetera. L'interesse per una ricostruzione più precisa del mondo classico, però per trarne degli ammaestramenti o delle conseguenze per l'oggi, comincia con l'umanesimo e con il Rinascimento, cioè comincia con il XV e il XVI secolo, ma viene a compimento in qualche maniera soltanto verso il XVII secolo. E rapidamente i tedeschi, la cultura tedesca, che è una cultura per certi versi arretrata rispetto ad altre culture, tipo quella francese, italiana, eccetera, perché comincia molto più tardi, cioè mentre la letteratura italiana comincia nel XIII secolo, no? con i primi poeti in lingua volgare, poi con Dante, eccetera. Quella francese comincia poco dopo, nel XIV-XV, con Rabelais, eccetera. Quella inglese anche per certi versi. I tedeschi non hanno nulla, nella lingua tedesca ci sono soltanto alcuni vecchi poemi e fino al XVII secolo non c'è una letteratura tedesca. Però i tedeschi rapidamente, e soprattutto non si sa come, insomma, cioè, si può capire anche perché, insomma, la cultura tedesca stabilisce, o cerca di stabilire, o pretende, come dire, di stabilire in qualche modo quasi, una sorta di rapporto privilegiato con, diciamo, la cultura greca. Detto, questo avviene soprattutto ad opera della filosofia, ma anche della filologia. Come dire, i tedeschi si sentono nel corso del Settecento e soprattutto dell'Ottocento poi gli eredi migliori dei greci, cioè gli unici eredi, secondo loro, gli eredi più completi, coloro che hanno saputo davvero raccogliere l'eredità della cultura greca e portarla in molto più che noi gli italiani, i francesi, eccetera, che ne avrebbero forse avuto maggiore, che ne so, titolo, no? Gli italiani è un po' difficile perché, come dire, in Italia la presenza della cultura latina e non greca, la cultura latina è stata così forte che spesso c'erano grandi filologi, ovviamente, anche della lingua greca e della cultura greca in Italia anche nel Settecento, però insomma era sempre il latino quello che era la nostra lingua è quella più simile al latino da un certo punto di vista, più simile anche dello spagnolo, anche se lo spagnolo ha mantenuto prevalentemente alcune forme arcaiche, diciamo, del latino, tipo i plurali in s, eccetera, che non ci sono più, ma a parte questa cosa, obiettivamente fra le tre grandi lingue neolatine, fra tutte le sei o sette lingue neolatine che ci sono, comprese quelle minori, quelle parlate da meno gente, è la lingua italiana quella che è più simile al latino. I tedeschi avevano questa cosa, però qual era ai tempi di Nietzsche, adesso comincio a fare conclusione con i nomi, ai tempi di Nietzsche, qual era la ricostruzione della cultura greca che più di tutte faceva, come dire, aveva corso, insomma, nella coscienza dei come dire, tedeschi e poi anche degli europei in genere, insomma, di quell'epoca, era la ricostruzione della cultura greca che aveva dato circa un secolo prima di Goethe, o poco meno, continuo a dire Goethe invece di dire Nietzsche, un secolo prima di Nietzsche, o poco meno, 80 anni prima di Nietzsche, aveva dato un intellettuale tedesco che era stato il vero, come dire, scopritore, il vero artefice dell'ingresso dell'immagine più, come dire, popolare, insomma, sia nel mondo della, diciamo, cultura che nel mondo degli uomini colti, non solo degli studiosi, ma insomma in genere di quelli che si interessavano un po' a queste cose. Questa persona si chiamava Joachim, non mi ricordo il nome di battesimo, Winckelmann, era stato Winckelmann che aveva nel Settecento questo personaggio un po' strano, morto in circostanze misteriose in Italia, credo, tra l'altro, vicino a Napoli, assassinato, non si sa, in una persona. Qual era stata la ricostruzione della cultura greca che aveva dato Winckelmann? Winckelmann si era basato principalmente, diciamo, su quella che poi Nietzsche chiamerà l'Apollineo, cioè sulla scultura greca, e da questa scultura aveva ricavato e aveva diffuso in tutta quanta l'Europa l'immagine della cultura greca come l'immagine di una cultura equilibrata, quindi di un popolo che almeno nelle sue manifestazioni culturali più alte, certo, non si esclude che ci fosse, che aveva, come dire, raggiunto una specie di magico equilibrio, che era capace di contemplare la natura con gli occhi, esattamente come si vedeva in queste statue, no? E quindi l'Apollo del Belvedere, la statua Criso Elefantina di Zeus, di Fidia, la statua di Atena, queste figure immobili, con lo sguardo fisso all'orizzonte, no? Così, tranquille, belle. Anche in quelle più, tipo, non so, il discobolo di Mirone, no? Quelle in cui c'è maggiore. Il corpo è sottoposto a una serie di torsioni, di tensioni diverse, ma anche lì dice, però quello che conta è che anche questa situazione di torsione e di tensione viene resa con una forma magica, equilibrata, nella geniale costruzione delle forme, delle curve di questo corpo che sta piegato, chinato, diciamo l'attimo prima di tirarsi in piedi e di lanciare questo disco della cosa, noi vediamo questa capacità appunto apollinea dell'equilibrio greco, no? Apollinea. Apollo diventa, insomma, diventa, forse non è totalmente colpa di Winckelmann questa, ma insomma, un po' perché le statue di Apollo sono quelle in cui questa compostezza, questo equilibrio, questa serenità si vede meglio, no? Ma un po' anche perché Apollo è appunto il dio che sovrintende, pare, a tutte le arti, perché in questa cosa che dice qua Nietzsche all'inizio della sera c'è una certa forzatura, insomma, perché Apollo è diciamo, non il padre, ma il patrono delle muse, quello che va con loro sul monte, come si chiama, sul Parnaso, o insomma, diciamo, nell'Eliconia. Apollo in realtà, almeno in tante parti della cultura greca, appare come una sorta di dio onnipresente nelle arti, quindi non solo nella scultura, come dice qua Nietzsche, ma anche nella musica, anche quindi sembra che sia tutto apollineo. Certo, ogni tanto arriva qualche eccezione, c'è qualche scultura ellenistica, quindi un po' più tarda, non del V secolo, IV secolo, diciamo del III, II secolo, per esempio quella di Laocoonte, il famoso gruppo di Laocoonte, ce l'hai presente? No. Allora, Laocoonte adesso qui, cercatelo a casa, è un famosissimo gruppo statuario, di cui adesso non voglio dire una stupidaggine, non so se ci sia più l'originale greco o ci sia solo una copia romana. Comunque, Laocoonte è una storia che viene raccontata, non mi ricordo se c'è nell'Odissea o se c'è solo nell'Eneide, comunque era un pezzo del mito greco. Quando i greci fanno l'inganno del cavallo di Troia, no? E sbarcano, c'è il cavallo sbarcato sulla cosa, eccetera, sulla spiaggia, e la maggioranza dei troiani è già quasi, diciamo, disposta a sì, che bello, un regalo, portiamocelo, che bel cavallo, bla bla, eccetera, senza sapere ovviamente che dentro ci sono i guerrieri greci che aspettano solo di entrare in città con quel trucco, no? Sono solo due le persone che si oppongono a questa cosa e che dicono no, guardate, sarà sicuramente un trucco. Allora, una è Cassandra, la profetessa di sventura, la figlia di Priamo, che poi diventerà schiava di Agamennone, eccetera. Ma Cassandra è screditata, nessun troiano è considerata una figura non ufficiale, un po' come dire marginale, così, è una che dice sempre blatera, parla così, vabbè, che ci frega, insomma, quindi diciamo, Cassandra viene presto diciamo, non perché neutralizzata, sono donne. cosa? Forse anche perché è una donna, anche se poi sono le donne principalmente nella cultura greca, alcune donne che hanno, pensa che l'oracolo di Apollo a Delfi, la sacerdotessa era una donna, quella che stava sul tribode, assorbiva i vapori che venivano dal sottosuolo e portava nel responso del Dio, ed era lei poi che parlava, diciamo, Apollo parlava per bocca di Pitta, Apollo sempre, diciamo sempre Apollo. Anche per questo forse, insomma, comunque, insomma, Cassandra di fatto è una non, poi Cassandra sai che nel teatro moderno infatti è stata presa da alcune femministe, la più famosa è Christa Wolf, questa scrittrice tedesca, morta da poco, credo, che la prendono come esempio anche come simbolo femminista, insomma, da un certo punto di vista, certo, proprio per le cose che dici tu in qualche modo. Comunque, diciamo, adesso torniamo a noi. C'è questo cavallo di legno sulla spiaggia di Troia. Cassandra ha già detto no, non fidatevi, i greci sono malfidi, c'è un verso, adesso non mi ricordo più se lo dice lei nell'Eneide o in latino, che è Timeo Danaos et dona ferentes, ho paura dei greci, cioè mi fanno, diffido dei greci, anche quando portano doni, anzi addirittura quando portano doni, per esempio. Ma il Segalla, diciamo, neutralizzata l'opposizione di Cassandra, ecco però che arriva, sempre su questa grande scena della spiaggia di Troia, con i troiani accalcati intorno al grande cavallo di legno, arriva una persona, un maschio certo, più autorevole, il grande sacerdote Laoconte. Diciamo, come dire, Laoconte è il grande sacerdote, è uno molto più ascoltato di Cassandra, no? E lui arriva un po' in ritardo, diciamo, sulla scena della cosa e dice, e anche lui comincia ad inveire contro il cavallo, ma siete pazzi, non portate mai dentro, chissà che cosa c'è, chissà che cos'è, chissà, dice, non so, forse è lui che dice, temo i greci, diffido dei greci, forse lui e non Cassandra, uno insomma dei due. Insomma, Laoconte e l'opposizione di Laoconte sembra molto più efficace di quella di Cassandra. Quindi per un attimo i troiani vacillano, non sanno, ma forse non porteranno dentro il cavallo. Laoconte sembra quasi per qualche istante convincere anche i più, o comunque diciamo neutralizzare, vincere, battere, come dire, l'opinione dei più entusiasti fra i troiani, dicono no, portiamolo dentro. Allora qua intervengono gli dèi, interviene Poseidone, Nettuno, il dio del mare, il quale è dalla parte dei greci, come sappiamo dall'Iliade, gli dèi sono un po' divisi, no? Alcuni tra la parte dei greci e la parte italiana, lui è dalla parte dei greci, lui capisce, dice, all'improvviso che questa cosa, diciamo, della Conte rischia di mandare a monte il bellissimo piano architettato da Odisseo, cioè da Ulisse con l'aiuto di Atena. E allora cosa fa? Improvvisamente vedi che mentre Laoconte è lì che sbraita, arringa i troiani, no, mi raccomando, non fatelo, Laoconte è lì con i suoi due figlioletti. Ribollono le acque, emerge dal mare un gigantesco drago, un serpentone, una Madonna che si avvinghia, arriva addosso a, diciamo, Laoconte, prende lui e i suoi due figli e con la potenza li stritola. Ok? Allora la sapete questa storia, okay? L'ho dovuto fare la lunga, ma. No, non capivo quella tua storia. Allora, la statua è esattamente una statua in cui si vede Laoconte e i suoi due figli piccolini dentro le spire di questo serpente. È una statua, come dire, lodatissima, stimatissima, ammiratissima per tutta, credo sia stata risco, adesso non ricordo più, perché c'è una storia forse anche, se vai a vedere su Wikipedia probabilmente la trovi, forse era stata riscoperta alla fine del Medioevo, non lo so, insomma è una roba per cui c'era una grande discussione. Ed è una statua che noi potremmo dire per certi versi ha degli elementi barocchi, perché? Perché c'è, come dire, un pezzo di bravura, perché scolpendo nel marmo si deve far vedere tre figure maschili e non tranquille, belle, ma no, Laoconte addirittura stretta, ha la bocca aperta, urla, eccetera. I due figli pure piccoletti, eccetera, e tutte le spire di questo serpente che gli sanguinano intorno. Quindi è dal punto di vista tecnico è un'opera, come dire, mirabile, come per scalpellarla, per scolpirla bene, ci vuole mano ferma, grande intuizione, eccetera. Bene, nel Settecento in Germania c'è proprio una discussione su questa statua, in cui a un certo punto interviene il guru, diciamo, l'intellettuale più importante della Germania del Settecento, prima di Goethe, cioè vabbè, poi dopo arriva, diciamo, Goethe, ma insomma verso la metà del Settecento, l'intellettuale più importante tedesco si chiama Lessing, allora c'è qualcuno che critica il Laoconte proprio perché non è una statua, la statua del Laoconte, perché non, diciamo, soddisfa i parametri di Winckelmann, no? Non è una, come dire, non esprime equilibrio, compostezza, eccetera, eccetera. Ma Lessing, con un colpo di genio, ribalta questo, come dire, giudizio e dice, no, guardate che invece, se guardate bene la faccia di Laoconte, in questa statua, anche il suo viso, pur dove, cioè, è una, dice Lessing, adesso forse insomma, semplifico un po', ma insomma, in qualche maniera la tesi insomma, di Lessing è lo scultore, l'anonimo, perché non credo che si sappia neanche l'autore, l'anonimo scultore della Conte è riuscito, anche rappresentando un soggetto così squilibrato, così tormentato, quindi così opposto agli, diciamo, è riuscito però ad esprimere lo stesso nella forma, una sorta di equilibrio. Perché è vero che, e lui poi argomenta addirittura, dice, perché il greco non avrebbe potuto proprio neanche immaginarsi, neanche sopportare di vedere espressa, di vedere espresso in maniera troppo, di vedere espresso in maniera troppo realistica, non mi venivano le concordanze, vedere espresso, bisogna vedere il complemento diretto che ci metto, di vedere espresso in maniera troppo realistica il terrore, l'orrore. Il greco ha una sorta di pudore verso questo, e quindi, e lui dice, guardate bene la faccia della Conte, nonostante sia spaventato, nonostante si stia per essere stritolato da questo male serpente, il suo volto non esprime in fondo l'angoscia che noi ci aspetteremmo che esprimesse. Diciamo, noi facciamo un esempio, come dire, posteriore, l'urlo di Munch. La faccia di Laoconte non ha scritto così Lessing, ovviamente, perché Munch ancora non l'aveva, però noi potremmo dire, la faccia di Laoconte statua non è la faccia dell'urlo di Munch, che invece esprime davvero l'angoscia, davvero, perché siamo in un periodo in cui questa, come dire, questa impossibilità di, proprio questa incapacità, questo volgere lo sguardo da ciò che è troppo, da ciò che esprime troppo direttamente l'angoscia, no? Non c'è più nel Novecento, alla fine dell'Ottocento e Novecento, ma invece nell'epoca greca c'è ancora, quindi dice Lessing, guardate che anche il Laoconte in fondo esprime sempre, è sempre una scultura, diciamo, avrebbe detto Winckelmann, apollinea, cioè è una forma di apollineismo, chiara la cosa? Il bersaglio polemico di Nietzsche in quest'opera è principalmente Winckelmann, e cioè questa ricostruzione della cultura greca. Dice Nietzsche, questa ricostruzione della cultura greca è limitata, esclude, una, dice, veritiera, non realistica, non è affatto vero che la cultura greca era una cultura che era incapace di esprimere l'angoscia, il dolore, addirittura di esprimere lo squilibrio. E ha una buona, diciamo, ragione Nietzsche nel ricordare, intanto nell'attribuire a Dioniso questa, diciamo, nel chiamare col nome di Dioniso questa componente, come dire, angosciosa, furiosa, più che angosciosa, furiosa, la furia, lo scatenamento, il superamento del limite, lo squilibrio, la tensione verso in qualche maniera l'infinito. Dice, se no, perché, come potremmo spiegare con le categorie della Grecia equilibrata, eccetera, i rituali, diciamo, del culto di Dioniso. Nei rituali del culto, come dire, di Dioniso, delle donne, fra l'altro, dei gruppi femminili, si isolavano per un certo periodo dalla comunità, andavano sui monti, facevano vita selvaggia, si autocaricavano fra di loro come? Con il canto, con la musica e con la danza, ma non con la musica e con la danza di Tersicore, della dea della danza, non con i movimenti aggraziati, non con i movimenti come dire, equilibrati, non con l'armonia, ma con la disarmonia, con l'urlo, con non con gli strumenti a fiato. Con si chiama la dea della danza? Tersicore. Tersicore, è una delle muse, che si fa, non so più se è una delle nove muse, no? Mi sembra di sì, Tersicore. È la dea che presiede la danza. Quindi non è questa danza che presiede ai culti bacchici, le menadi o le tribadi, menadi o tribadi si chiamano le adepte del culto di Dioniso, non usano, diciamo, la musica che fanno, non è la musica degli strumenti a fiato, e questa è la musica di Apollo, no? È la musica degli strumenti a percussione, sono i cimbali, sono i timpani, sono queste cose che danno un ritmo, ma un ritmo sfrenato, un ritmo che serve per in qualche maniera superare non si sa se verso l'alto o verso il basso la condizione umana, magari verso il basso, ricondurre l'umanità alla animalità, scatenare delle forze ferine, no? Animali. Nell'essere umano, per esempio, mangiare la carne cruda, le tribadi mangiano, prendono, catturano gli animaletti, li dilaniano da soli con le loro mani e mangiano la carne cruda, non la cuociono, non fanno uso del fuoco, non fanno uso delle. E addirittura, come racconta il mito, se per caso gli capita un essere umano fra le mani, ad un lo trattano come se fosse una bestia feroce, così capita al re Penteo, nella appunto tragedia Le Baccanti di Euripide, in cui è la moglie del re, che non mi ricordo più come si chiama, accidenti, che guida questo gruppo di Baccanti di Megesse, si stacca, se ne va via dalla reggia e si, diciamo, converte ai culti, insomma, dionisiaci. Il re è preoccupato, allora va sulle montagne pure lui in cerca della moglie per riportarla a casa, per dire no, ma vieni, eccetera, per riportare l'equilibrio. Man male gliene incoglie perché incappa, incontra il gruppo delle menadi non in un momento di tranquillità, ma nel momento alto del rito, quando sono tutte scatenate, quando il malevolo dice quando hanno mangiato troppi funghi, quando hanno fumato troppa cannabis, eccetera, quello che sia. E insomma, che cosa fanno queste donne, compresa la moglie? La moglie stessa non lo riconoscono neanche, non capiscono neanche che è il Penteo, lo pigliano, lo sbranano e se lo mangiano. Quindi antropofagia. Questa è una delle tragedie di Euripide. Allora, ecco il dionisismo, ecco l'aspetto, allora non c'è solo un aspetto armonioso, armonico, eccetera, nella cultura greca, c'è anche un aspetto disarmonico, c'è anche un aspetto no, che marca il superamento del limite. Questo aspetto è quello legato a Dioniso. D'altra parte Dioniso è un dio che fin dalle storie che si raccontano di lui è un dio della continua, non è il dio della ricomposizione, è il dio della lacerazione. Uno dei miti più importanti di Dioniso bambino, Dioniso fra l'altro non è un dio olimpico, non è uno dei fratelli di Zeus, è un figlio di Zeus e di un'altra dea, ma di una dea minore. Di una ninfa, insomma, no? Quindi è un dio strano, un dio, probabilmente infatti storicamente il suo culto viene introdotto più tardi in Grecia rispetto al culto, forse è un culto che viene dalla Tracia, cioè da una regione non propriamente ellenica, greca, come cultura classica, insomma, da una regione semibarbara, direbbero, diciamo, i greci. Bene. In uno dei miti più diffusi, insomma, di Dioniso bambino gioca con i suoi giocattolini, uno specchio, una ciotola, eccetera, sulla sabbia, sulla riva del mare. E a un certo punto arrivano i titani, cioè gli dei sconfitti da Zeus, che non si sa bene per quale ragione, non sono ancora, probabilmente non sono ancora stati imprigionati, perché poi i titani giacciono sotto l'Etna, no? Sono quelli che sono i responsabili dell'eruzione dell'Etna quando l'Etna si muove, cioè sono i titani incatenati lì sotto che si muovono. Allora forse non sono ancora stati incatenati, sono ancora lì, però sono già stati sconfitti da Zeus. E cosa fanno? Attirano il bambino Dioniso, questo Dioniso bambino con altre. Sempre con dei giocattoli, non mi ricordo se con i suoi giocattoli o con altri giocattoli, quindi con uno specchietto, una trottola, un qualche cosa, eccetera, e per vendicarsi in maniera così non possono fare altro, possono solo vendicarsi su un bambino perché Zeus li ha già sconfitti, allora lo pigliano e lo sbranano, lo fanno a pezzi con le loro mani. Lo fanno a pezzi e poi se lo mangiano, cuociono la sua carne. E qui c'è un curioso particolare perché invece nella cucina sacrificale greca c'è un ordine molto preciso tra i due principali modi di cucinare la carne, cioè arrostirla e bollirla. Nel sacrificio greco la carne viene prima arrostita, cioè quando si ammazza l'animale, no? Il sacerdote dapprima prende l'interiore, fa gli spiedini, insomma, le configura sullo stecco, le abbrustolisce lì per lì, proprio mentre ancora il sangue cola, eccetera, eccetera. Allora il sangue cola in una fossa, perché il sangue è destinato agli dei ctoni, agli dei sotterranei, quindi ad Ate. Poi il fumo delle ossa, del grasso, eccetera, bruciato, andrà verso l'alto, verso il cielo, e sarà la parte che spetta agli dei Olimpi, la carne spetta agli esseri umani, come secondo il trucco che è stato Prometeo, che ha fatto questo trucco e ha detto sì, gli uomini, però Zeus ha scelto, e quindi va bene. Allora, prima le interiora vengono arrostite durante il sacrificio, appena la bestia è stata sgocciata mentre il sangue cola, e vengono consumate direttamente dal come sacerdote e dai suoi assistenti. Poi, una volta che i suoi assistenti hanno mangiato questa carne arrostita, quindi, viene fatta a pezzi la bestia e la carne viene buttata dentro un pentolone, viene bollita, e quando ha finito di bollire dopo qualche ora viene distribuita alla gente che sta intorno, al popolo che sta intorno e che guarda il sacrificio. Quindi c'è nella cucina del sacrificio una, come dire, priorità rituale, prima l'arrosto e poi il bollito. Stranamente nel racconto del mito della spartizione, insomma, dell'assassino, dello smembramento di Dioniso e poi del suo consumo, quando i titani, se lo mangiano, fanno esattamente il contrario, cioè prima buttano i pezzi di Dioniso bambino nel pentolone a bollire, poi quando sono un po' sbollentati li tirano fuori e li arrostiscono, quindi c'è un'inversione curiosa della priorità su cui gli studiosi di mito nel Novecento si sono arrovellati a lungo per cercare di capire che cosa potesse voler dire, tirandone fuori tutta una serie di interessanti ipotesi, insomma, su cui adesso però non c'è il tempo di soffermarci. Ti lascio così, no, non so se ci sono varie tesi, probabilmente la più convincente delle quali sta nel fatto, ci sono quelli che la mettono dal punto di vista storico, cioè che siccome Dioniso non è un dio del Pantheon originario, diciamo dei 12 dei olimpici, insomma, no? È una sorta di aggiunta posteriore, è un tentativo in qualche maniera di salvare le tesi di Winckelmann in qualche modo, no, cioè che sia una specie di aggiunta successiva, in realtà messa in questo modo questa tesi non è granché, diciamo, sostenibile, allora quindi questo spiegherebbe il fatto che il consumo delle carni di Dioniso non rispetta l'ordine, diciamo, sacrificale, perché è una cosa terza. Mentre altre tesi, secondo me, sono più interessanti, come dire, sostengono che in qualche modo sono più simili alla tesi, insomma, di Nietzsche, e cioè che c'è che comunque Dioniso rappresenta una tensione all'interno del mondo della cultura greca, quindi rappresentando l'aspetto del disordine, l'aspetto della rottura delle regole, anche nell'ordine sacrificale deve rompere le regole, quindi prima si boccia, che è più, molto probabilmente un po' più. Adesso te l'ho detta così in modo molto semplice, ma ci sono stati sì di libri così grossi solo su questo particolare. In modo particolare credo Burckhardt, no, chi è quello? Detienne e Vernandu, due studiosi del Novecento, degli anni 50 e 60 francesi, hanno scritto una che si chiama La cucina del sacrificio in terra greca, in cui spiegano tutto l'ordine del servizio, ma metà del libro praticamente sul tentativo di spiegare questo mito di Dioniso dal punto di vista di creazione. Però grosso modo la loro tesi è, diciamo, più simile a quella che ti ho detto della, diciamo, seconda. Allora, quindi abbiamo capito, questo è per darti un'idea, cioè cosa c'è dietro a tutto questo genere di cose. Ora, in realtà quello che ci interessa però a noi, cioè perché lo pongo qua, è perché nel mondo greco esiste un enorme contrasto per origine e per fini tra l'arte dello scultore, l'apollinea, quindi un'arte figurativa, un'arte di immagini, e l'arte non figurativa della musica. Adesso, no, dobbiamo ancora concludere ovviamente il discorso di Nietzsche. Allora, la tesi, diciamo, di Nietzsche qual è? È che è sbagliato appiattire e descrivere la cultura greca come una cultura totalmente apollinea, come aveva fatto Winckelmann. Secondo Nietzsche la cultura greca ha bisogno di entrambi questi lati, di entrambe queste componenti, ha bisogno sia della componente apollinea che di quella dionisiaca, e ha bisogno anche di un momento artistico, cioè dell'arte, quindi della espressione più alta, più precisa, più forte, più diciamo della cultura greca, ha bisogno di un momento in cui queste due componenti non siano soltanto una vicino all'altra, ma interagiscano tra loro. Ma, dice Nietzsche, questa forma culturale artistica nella Grecia classica c'è, ed è la tragedia. La tragedia, in effetti, pensandoci bene, è un altro dei dati culturali che si oppongono alla visione winckelmanniana così, no, tranquilla, la Grecia, i greci, tutti sempre armoniosa, cioè dove è armoniosa? Dove? Cioè, leggiamo le tragedie greche da quelle primitive di Eschilo, un po' più composte, a quelle di Sofocle, anche a quelle di Euripide, non ne parliamo, le tragedie non sono, sono una, come dire, un regno di assassini, di incesti, di violenze, di terrore, di, no? di tutto capita, tutto, poi certo, in cui alla fine in qualche modo la, come dire, questa tensione viene in qualche maniera ricomposta, certo, ma il materiale, la materia di queste, di queste, come dire, tragedie è quella, Dio buono, c'è questa componente. Quindi, e diciamo, il materiale, il contenuto, quindi non sono i miti più, come dire, insomma, quelli più equilibrati e quelli più rassicuranti che vengono messi in scena nelle greche, sono non a caso proprio i miti più sanguinosi. I miti sono Aiace che non gli danno le armi di Achille e diventa pazzo e alla fine si suicida. Sono Agamennone che torna a casa dopo la guerra di Troia con la schiava Cassandra, e quando torna a casa trova la moglie di Clitennestra che si è fatta l'amante e lo sbuzza per bene, lo fa ammazzare dal suo amante, e allora il figlio arriva, ritorna Oreste per vendicare il padre, ammazza la madre, e poi le furie, le erinni perseguitano Oreste. Certo, poi alla fine ad Atene, questa che ti sto raccontando adesso è l'unica trilogia, l'unica serie di tre tragedie greche che ci sia giunta, ed è l'Orestea di Eschilo, evidentemente. Alla fine certamente Oreste si salva dalla furia di queste divinità cattivissime, queste tre donne nere, tutte arrabbiate, le erinni, con la mediazione dell'Areopago di Atene, del consiglio dei vecchi saggi di Atene, il quale trova la mediazione. Le erinni smetteranno di perseguitare Oreste, che potrà quindi stabilirsi tranquillo in città senza più svegliarsi di notte urlando con la bava alla bocca perché le furie lo perseguitano. E le suddette furie, le suddette erinni cambieranno nome, verranno chiamate Eumenidi, le benevole, e avranno un bellissimo tempio ad Atene, costruito ovviamente a spese della, diciamo, città. Allora, qui c'è una componente politica, evidentemente, come in tutte le insomma, tragedie. La tragedia greca, essendo una tragedia ateniese, perché c'era solo l'Atene, come dire, essendo una sorta di obbligo per tutti i cittadini, erano ben pochi quelli che si sottraevano, cioè era una cosa quasi obbligatoria andare a stavi lì e stavi a teatro tutto il giorno, cioè stavi la mattina alla sera, vedevi una trilogia di fila, un dramma satiresco, una farsa, eccetera, insomma, quindi piangevi, ti divertivi, eccetera, e queste grandi cose, e quindi era. E quindi c'era sempre un certo senso politico sotto sotto, cioè c'era un come dire, discorso politico, diciamo, il come dire, discorso politico, il senso politico dell'Orestea è, per fortuna, che c'è la democrazia ateniese, cioè la polis ateniese. È vero che non si parla di democrazia nell'Orestea, cioè nell'ultima delle tre tragedie, che si chiama appunto Le Eumenidi. Il titolo della tragedia è Agamennone, Le Corefore e Le Eumenidi. In Agamennone, Agamennone muore ucciso da Egisto. Nelle Corefore, Clitennestra, committente dell'omicidio, viene ucciso dal figlio Oreste, e nella terza, Oreste, perseguitato dalle Erinni, trova rifugio in Atene e si salva. Questa cosa di Atene ovviamente è un'aggiunta che ha fatto Eschilo al mito, cioè non c'era nel mito originario, insomma non c'è in nessun altro testo. E perché l'ha fatta? L'ha fatta per dire, allora è vero che c'è il vecchio Areopago, cioè la spianata di Ares, erano i vecchi guerrieri, insomma, erano degli aristocratici, l'Areopago è una cosa che ai tempi storici non c'era già più in Atene, quindi è una istituzione vecchia di tipo feudale, potremmo dire noi, no? Comunque. Ma è soltanto un modo, chiaramente lo spettatore ateniese va a come dire, vede l'Areopago, ma non vede l'Areopago, in realtà lui vede l'assemblea, vede le istituzioni, cioè l'Areopago per lui è solo il simbolo delle istituzioni democratiche del suo tempo. È chiaro che non si poteva mettere così, cioè, sarebbe stata una, come dire, c'è cioè una sorta di verosimiglianza mitica anche nel mito, se no, quindi era impossibile mettere delle istituzioni storiche dentro una tragedia che parla del mito, quindi per questo si mette un pezzo del mito, però interpretato il mito voleva dire qual è la città che ha risolto i problemi del vecchio ordinamento. Mentre il vecchio ordinamento, la vecchia società basata solo sul diritto del più forte, del guerriero, insomma la vecchia società feudale, micenea, insomma, degli dei, la società del mito, insomma, no? È una società nella quale si creano problemi di questo tipo. Se la moglie ammazza il marito e poi il figlio vendica il padre, ammazzando la madre, c'è un conflitto terribile e secondo quelle leggi irrisolubile. Perché la cosa drammatica, la cosa tragica è che Oreste ovviamente è sì colpevole di matricidio e quindi è colpevole di uno dei delitti più terribili, bla bla, ammazzare la propria madre, però l'ha fatto per vendicare il padre che è stato ucciso dalla moglie, quindi anche con il Clitennestra era colpevole di. Ma attraverso questo gioco continuo di, diciamo, rilancio, io, è come nelle faide delle società, come dire, molto contadine, molto, diciamo, ancora fortemente intrise di matrice di contadina, la faida, io ammazzo te, allora io ammazzo tuo figlio, allora io ammazzo tuo cugino, allora io ammazzo tuo nonno, e vai lì, avanti, vieni, fino a che non si esauriscono i parenti, no? Ce n'è sempre qualcuno nuovo da fare fuori. Bisogna porre un termine a questa cosa, chi è che pone un termine? Chi è? E diciamo il succo, insomma, politico è dentro insomma, come dire, questo questa serie di fatti, questa serie di atrocità, questa serie di delitti, questa serie di terrori non è componibile all'interno della vecchia società. Ci vuole una società nuova, ci vuole la democrazia, ci vuole la discussione tra tutto il popolo, eccetera, eccetera. Questa società, quindi la città di Atene, che è la città che ha inventato questa nuova forma politica, cioè questa democrazia o questa isonomia, questa uguaglianza di tutti gli uomini liberi di fronte alla legge, è quella dentro cui si possono risolvere questi conflitti, che invece mantenendo il vecchio quadro culturale e normativo non si possono risolvere. Ma questo è indubbio che ci sia questo aspetto, e c'è un po' in tutte le tragedie un aspetto politico, certo, una troppo politica, però sbaglieremo anche a dare di questa del teatro greco, sbaglieremo a dare una lettura puramente politica e puramente dell'attualità politica, insomma, no? La sostanza mitica che c'è dietro, il materiale mitico che viene rielaborato, insomma, le storie che vengono raccontate, sono comunque storie, come dire, storie in cui il conflitto, lo scontro tra singole personalità o tra gruppi sociali diversi, è uno scontro che, come dire, si sviluppa e arriva alle sue conseguenze più estreme, che sono la follia, la morte, l'assassinio, lo smembramento, la mutilazione, l'atrocità, tutto quanto, a prescindere dal, in un modo a cui l'uomo non può fare nulla. Se pensi all'insieme dei fatti su cui è costruito il mito di Edipo, e che poi Sofocle porterà, cioè, almeno a noi ci è giunta, non tutta, ma ci è giunta due terzi della trilogia di Edipo, cioè Edipo Re e Edipo a Colono, di Sofocle, ci manca la prima parte, non mi ricordo. Allora, comunque, se pensiamo alla storia di Edipo, vediamo bene che, fatto salvo poi la lettura politica che se ne può dare, si può dare ovviamente una lettura politica anche della cosa di Sofocle, però la sostanza del mito è questa, insomma, un bambino, figlio di re, viene esposto su di un monte al gelo e al freddo perché muoia, perché una profezia ha detto che questo figlio sarà la causa della morte del padre. E quindi il padre, che è laio, lo manda, dice, speriamo che gli orsi se lo mangiano. Ma un pastore incontra il bimbo, prende pietà di questo bimbo e lo alleva, e quindi lo salva. E il bambino, totalmente inconsapevole di essere, la storia la sai, non te la devo ripetere, la sai la storia. Allora, tutta l'insieme di cose che poi, allora, è la sfinge, l'indovinello, è lui che incontra il padre, non lo ingrossa, cedi il pasto, no, cedi tu, no, che stronzo che sei, lui va a botte, lo butta giù, vabbè, e ammazza il padre, ma non sa che è, diciamo, suo padre. Poi arriva, risolve l'indovinello della sfinge, la sfinge si ammazza, lui torna a Tebe, dice, ah, sei quello che ha ammazzato la sfinge, bene, bravo, facciamo re, beh, c'è qui la signora che appena vedo, sposati questa, è ok, e si sposa la mamma. Allora, sono tutte robe, come dire, terribili, ma diciamo il succo è con la nozione di responsabilità che abbiamo noi moderni oggi, è colpevole Edipo? No, povero Cristo, che c'entra lui? Non sapeva nulla, perché deve fare? Mentre invece per un greco è colpevole, perché la nozione di la visione delle cose umane che ha un greco antico, ovviamente non è la nostra, ed è basata su una sorta, chiamiamola, di responsabilità oggettiva degli esseri umani. Ma attenzione, che non è poi tanto diverso da quella del cristianesimo, eh? Cioè, il cristianesimo quando, che cosa dice? Che appena noi nasciamo siamo terribilmente peccatori, che abbiamo peccato originale, perché siamo discendenti, perché questo disgraziato di Adamo si è mangiato la mela o ha fatto quello che Geova gli aveva detto di non fare, dobbiamo pagare noi tutte le conseguenze. Beh, non è poi tanto diverso da Edipo che deve pagare le conseguenze per una colpa di cui sarebbe, come dire, secondo il diritto moderno, giuridicamente innocente, perché non sapeva che cosa, chi erano gli interlocutori, insomma, chi era lo sconosciuto che gli... certo, insomma, sì, non è che si ammazza uno su un sentiero perché non ti cede il passo, ma nella morale dell'epoca andava bene così, se non sai che è tuo padre non sei un parricida. No, per il greco invece sei un parricida lo stesso, non importa che tu sappia o no. Non importa che tu sappia o no che Giocasta è tua madre perché tu sei figlio di Laio, di Laio, che è quello che hai ammazzato nel coso. E quindi giustamente è giusto, tu ti devi accecare, ma non solo, poi tu ti sei pure accecato, hai pure dato il regno ai tuoi figli e i tuoi figli pagheranno ancora le conseguenze, perché gli dèi li metteranno uno contro l'altro, Eteocle contro Polinice, e quindi ci sarà la guerra, faranno la guerra dei sette contro Tebe, bla bla bla, e poi addirittura la loro sorella Antigone verrà condannata a morte perché no, è tutto un insieme di... Allora, accidentaccio, cioè, dove sta l'Apollineo qua? Dove sta Apollo? Dove sta l'equilibrio? È chiaro che non c'è nulla di Apollineo, no? E allora, giustamente, come dire, Nietzsche, torniamo a Nietzsche, l'operazione di Nietzsche quindi è, da un lato, tentare di rendere più complessa la nostra visione della cultura greca, ma... prendo fiato, no, perché voglio arrivare al punto che ci interessa a noi. Allora, però Nietzsche già nel 1870-71, già a 26 anni, nonostante sia un filologo e quindi abbia, diciamo, il suo interesse maggiore sia quello di ovviamente salvare la conoscenza più precisa, bla bla, eccetera, della cultura greca, però in realtà c'ha un occhio anche all'oggi, ce l'ha un occhio all'oggi. E allora che cosa fa lui? Naturalmente, da un certo punto di vista, siccome lui parte da una sottovalutazione di Dionisiaco, lui dice guardate che sinora nella visione della cultura greca che noi abbiamo è stato sopravvalutato l'Apollineo, ma guardate che c'è anche il Dionisiaco. Dovendo ridare a una componente della cultura greca, cioè quella dionisiaca, che è stata misconosciuta, che è stata ignorata, che è stata sottovalutata, da un certo punto di vista Nietzsche deve accentuare di più l'aspetto dionisiaco nei confronti dell'Apollineo. In realtà lui dice... Lui non ha mai detto che bisogna essere soltanto dionisiaci, cioè ha detto che bisogna essere sia dionisiaci che apollini, bisogna trovare il modo di combinare queste due cose. Però dal punto di vista del numero di righe che scrive, eccetera, è chiaro che ha accentuato di più ciò di cui si era parlato meno prima, cioè il dionisiaco. Ma nel fare questo, in maniera ancora ingenua, perché è un libro pieno di ingenuità, è un Nietzsche ancora giovane, un Nietzsche che non si è liberato dalle due grandi influenze della sua giovinezza, che sono Wagner da un lato, Schopenhauer dall'altro. Negli anni successivi, quando si libererà sia di Wagner che di Schopenhauer, sarà in grado di sviluppare la sua critica della società e della cultura in maniera molto più radicale di come fa nella nascita della tragedia. Però già nella nascita della tragedia c'è questo aspetto, cioè si può leggere la nascita della tragedia anche come una critica della cultura dei suoi tempi, dei tempi di Nietzsche. Qual è la critica implicita o a volte esplicita che Nietzsche fa alla cultura dei suoi tempi? potremmo dire, è quella di essere stupidamente e ingiustificatamente apollinea. Cioè, è chiaro che Nietzsche rimprovera alla cultura del suo tempo di trascurare il dionisiaco. E, diciamo, questo potremmo aggiungerlo noi, ma sarebbe totalmente in linea e in consonanza con quanto dice Nietzsche. C'è una ragione profonda nella incomprensione winckelmanniana della cultura greca, nella sua sopravvalutazione dell'Apollineo, ed è il fatto che Winckelmann è un uomo della modernità, ed è il fatto che Winckelmann è un ed è il fatto che le tendenze culturali della cultura contemporanea espresse da Winckelmann sono diciamo esageratamente, unilateralmente apollinee. Non tanto nella realtà delle cose, quanto nei, come dire, desideri, eh? È un wishful thinking, è una aspirazione impossibile da realizzare, quella della cultura moderna, della cultura dei tempi di Nietzsche, quella di essere conciliatrice, armonica, di mettere d'accordo tutti, eccetera. E quindi, diciamo, apollinea in questo senso, è un apollineità assolutamente ridicola, peggio ancora di quella dei tempi, ovviamente, degli antichi greci. Perché? Perché in realtà maschera un'altra cosa, maschera, dice Nietzsche, la vittoria della volgarità, la vittoria della mediocrità, la vittoria della medietà, è quello che dirà qualche anno dopo. In un altro libro suo, che sono le considerazioni inattuali, nella terza considerazione inattuale, quella di Schopenhauer come educatore, ma anche nella seconda, che è l'utilità e il danno della storia per la vita, ma soprattutto in Schopenhauer come educatore, in cui parla pochissimo di Schopenhauer e parla molto male, giustamente, del sistema educativo e di istruzione dei suoi tempi, ma molto ve lo dico, potrebbe ripetere tali e quali oggi, e dice, attenzione, è vero che apparentemente la nostra epoca è un'epoca celebra e che porta in palmo di mano la cultura, ma non è una cultura autentica, dice Nietzsche, e questa cosa c'è in filigrana anche dentro la nascita della, come dire, tragedia, perché, vediamo se lo trovo, perché lo dice ovviamente molto meglio lui di me, e dice, guardate che tutti parlano di filosofia, eccetera, eccetera, lo Stato vuole educare, e dice, ma in realtà non è la cultura del filosofo, cioè del vero amante della verità, ma è, dice, quali sono le forze, si dice, afferma Nietzsche, che nella Germania di oggi, cioè nella Germania, questo è un libro del 1870, beh, più o meno dell'epoca della pubblicazione della nascita della tragedia, quindi le scrive nel 74-75, ma poi le pubblica poco dopo, insomma. Oggi è l'uomo d'affari che vuole la cultura, quindi c'è una tensione della, diciamo, dell'economia, noi potremmo dire l'economia verso la cultura, è lo Stato che vuole la cultura, quindi è lo Stato che stipendia delle persone per fare i filosofi e per insegnare che cosa, non quello che pensano loro, ma per insegnare la storia della filosofia. Quindi praticamente sono dei professori di erudizione di storia della filosofia, non di filosofia, non insegnano così, non insegnano l'amore per la sapienza, l'amore per la, come dire, saggezza. Quindi nell'epoca contemporanea Nietzsche vede le forze della cultura assoggettate a delle forze che non sono la cultura, che sono lo Stato, che sono l'economia E lo Stato, quindi la politica, insomma, no? La politica nel senso della, non della, come dire, non della grande aspirazione a gestire collettivamente il bene comune, ma a fare gli interessi di piccoli gruppi particolari, quindi in questo senso, insomma. E quindi sono tutti questi. E qual è la caratteristica, secondo Nietzsche, che fa capire che la cultura contemporanea è una cultura, come dire, sbagliata, insomma, è una cultura che non. È proprio quella che, come dire, il culto delle forme, quindi il culto dell'Apollineo, il culto della bellezza. Parliamo adesso, diciamo, della Germania e dell'Europa ai tempi di Nietzsche, ma con delle considerazioni che potremmo facilmente estendere anche ai nostri giorni. Il culto della bellezza, o noi potremmo dire dell'interesse, della novità, della forma in genere, no? Dice, quando viene arbitrariamente isolata da un prodotto artistico, l'aspetto formale, l'aspetto della forma, che cosa si intende fare? Si intende passare sotto silenzio il suo rapporto con quello che quell'opera vuole dire, quell'opera, quella scultura, quel libro, quel romanzo, quella tragedia, quella commedia, quel diavolo che sia, qualsiasi prodotto artistico. Esaltarne la forma vuol dire mettere la sordina, mettere il, diciamo, silenzio a ciò che quell'opera dice su di noi, a ciò che quell'opera suggerisce allo spettatore o al lettore su se stesso. Quindi staccare la forma dal contenuto, staccare e promuovere una, come dire, società nel quale il culto della bella forma non sia altro che il culto di una maschera, che il culto di una sorta che diciamo, l'omaggio a una specie di travestimento sociale continuo con cui l'uomo, con cui gli esseri umani si presentano di fronte nei rapporti tra loro e sulla scena del mondo, insomma. E ora, nel libro della nascita sulla, diciamo, tragedia, dove comincia, secondo Nietzsche, questa decadenza, questo è il termine che lui usa proprio, decadenza. Dove comincia questa decadenza che lui dice nella tragedia classica non c'è. Si comincia, cioè in Eschilo non c'è, in Sofocle neanche. Dice dove si comincia forse a vedere un po' di scissione? In Euripide, nell'ultimo dei tre classici. E qui, cioè, viene il grande scandalo di questo libro. Non è stato tanto Dionisiaco e Apollineo, se adesso tutti ricordano la nascita della tragedia come, diciamo, il libro che ha finalmente fatto riscoprire il, come dire, Dionisiaco, ma non è tanto per questo che gli uomini di cultura, o della cosiddetta cultura, ai tempi di Nietzsche si scandalizzarono, ma per una cosa ben più, se correte, grave, e cioè l'attacco più tremendo, la figura che esce a pezzi da questo libro, non sono i tragici greci, è Socrate, è l'iniziatore della filosofia. È attraverso un rovesciamento veramente, bisogna dire, acuto per un giovane, per un ragazzo, perché quando ha scritto questo libro, aveva, poi quando l'ha pubblicato aveva 34 anni, ma quando l'ha scritto ne aveva 32 anni, ma quando l'ha scritto ne aveva 25, 26, insomma, quindi. È stato l'identificazione in Socrate dell'inizio di un processo degenerativo, diciamo, che cosa fa Socrate? Socrate, lui parte proprio dal fatto che Socrate più volte nei dialoghi di Platone afferma di non andare a teatro. Lui non va a teatro. E che cosa vuol dire? Vuol dire che contravviene addirittura a uno dei dettami civici, no? Perché era il dovere di ogni buon cittadino andare a teatro. Poi non viene condannato perché non va, non mi ricordo andata a morte perché non va a come dire, teatro, però certamente questo particolare deve avere come dire, predisposto favorevolmente anche i giudici nei suoi come dire, confronti. Non va a teatro e però alcune fonti, non come dire Platone, ma altre fonti, dice sempre Nietzsche, che ripeto, non ci dimentichiamo che è un filologo, quindi studia, aveva studiato e diciamo studiava tutte le fonti greche, con grande attenzione, alcune altre fonti ci dicono che addirittura però Socrate probabilmente era una sorta di ghostwriter di Euripide, cioè scriveva delle cose per Euripide, scriveva dei... e quando il giovane Platone incontra Socrate, Platone è uno scrittore di poesia, è un poeta, ha scritto delle poesie, ma Socrate lo convince e lui, come Platone capisce che se vuole diventare discepolo di Socrate deve distruggere queste, diciamo, poesie. Dica. Sì. Quattro. Sono le 3:30, quindi senti, devo rompere i coglioni fino a mezz'ora prima. Riprendiamo il filo. Allora, che cosa fa Socrate? Qual è, secondo Nietzsche, la virgolette colpa, insomma, l'operazione che fa, diciamo, Socrate? Perché Socrate, diciamo, dove si vede l'influenza negativa, insomma, di Socrate sul, dove si vede che Socrate è l'iniziatore, magari soltanto potenziale della decadenza della, diciamo, cultura. Esattamente in questo suo rifiuto di andare a teatro, perché nella tragedia, dice Nietzsche, in italiano è una cacofonia, dice Nietzsche, però insomma, quando lo vediamo scritto non è così, ma quando lo pensiamo parlato, in modo diverso forse nella tragedia storica, perché già con Euripide, però insomma ancora con Euripide, insomma in tutta la tragedia greca, c'è questa combinazione, c'è questo accoppiamento, questo miracoloso atto metafisico della volontà ellenica, che è l'accoppiamento del Dionisiaco e dell'Apollineo, che sono, dice poi sempre Nietzsche, corrispondono ai due mondi artistici separati del sogno e dell'ebbrezza. Lui dice, l'Apollineo è praticamente una specie di realizzazione del sogno, e il Dionisiaco è una specie di realizzazione, diciamo, dell'ebbrezza. La bella parvenza dei mondi del sogno, nella cui produzione ogni uomo è artista pieno, è il presupposto di ogni arte figurativa, anzi, come vedremo, altresì di una metà essenziale della poesia. Nella comprensione, ovviamente, è tutta una illusione, certo, dice, però è una illusione che ha una forza positiva. Ma come fa questa illusione ad avere questa forza positiva? E quando è combinata, invece, con l'esperienza, con quella intensificazione dell'esperienza, che è appunto, diciamo, l'ebbrezza, o che è il, diciamo, dionisiaco, e che è assicurata dalla musica, quando è davvero musica forte. Cioè, bene, quindi questa unità di questi due momenti, ancora nella tragedia, anche se forse nelle tragedie più tarde, questa cosa è come dire, si comincia a cogliere qualche scricchiolio in questo equilibrio, ma è ancora assicurata. Socrate non va a vedere la tragedia perché vuole rompere, perché vuole separare il Dionisiaco dall'Apollineo. E come vuole farlo? Lo vuole fare, dice, pervertendo la filosofia. Cioè, facendo una critica così radicale dell'illusione, che in realtà non è una vera critica dell'illusione, ma semplicemente una trasformazione della componente apollinea in una componente apollinea, come dire, assolutizzata. Quando la componente apollinea viene staccata da quella dionisiaca e viene fatta diventare un valore assoluto, che cosa diventa? Diventa la riflessione, la ragione, la però ragione non che continua a restare in contatto con gli strati più profondi o più periferici del comportamento, della, direi Nietzsche, dell'essenza umana, poi il Nietzsche più tardo farà anche una critica del concetto di essenza, ma in questa fase è fondamentalmente ancora un essenzialista. E quindi dice, questa ragione, che è quella che è la filosofia di Socrate, e dice guardate Socrate come viene rappresentato nelle commedie di Aristofane, nelle nuvole, credo, negli uccelli, non mi ricordo, una delle due onde, la dei 32. A dispetto di quello che scrive Platone, Socrate viene considerato come il principale sofista, viene considerato uno dei sofisti, mentre Platone ci mette tutta nei dialoghi di Platone, poi Platone dirà, come dire, presenta Socrate come un avversario dei sofisti. Invece il più importante commediografo contemporaneo di Socrate, Aristofane, dice, allora si chiede, dice, ma che Aristofane era così scemo, che non aveva, cioè, o bisogna concludere che Aristofane non aveva capito nulla o che aveva degli obiettivi polemici inconfessabili, o forse una qualche riflessione in più dobbiamo farla. E se Socrate, come dice Aristofane, era davvero un sofista, il più importante dei, come dire, diciamo sofisti, quale fu la sua funzione, la sua operazione principale all'interno della cultura greca, se non quella appunto di istituire la riflessione filosofica come una dimensione separata dalla vita degli esseri umani. La filosofia, secondo Nietzsche, anche secondo Nietzsche giovane, non dovrebbe mai essere separata dalla vita. In questo senso forse avevano ragione i cinici, anche se lui non lo dice, ma poi credo che lo citi Nietzsche, successivamente se non lo fa Nietzsche, poi è comunque Foucault che ci ricorda il detto, credo, di Diogene, il cinico, che parlando di un filosofo della sua epoca dice, un filosofo questo, dice davvero, è un filosofo? Dice, e come mai con tutto quello che ha scritto questo filosofo sinora non ha mai turbato nessuno? Il vero scopo della filosofia dovrebbe essere quello di turbare, dovrebbe essere quello di, e si può turbare, cioè si può mettere in discussione il modo di pensare tradizionale degli esseri umani soltanto quando si combina nella stessa persona un insieme di proposizioni, di asserzioni, di cose che si dicono con il modo in cui si vive. Quando uno vive esattamente seguendo i suoi precetti e le sue motivazioni, allora sì che, come dire, che la filosofia diventa davvero motivo di turbamento per l'essere che non è ancora arrivato a capire come si potrebbe vivere, che esiste un modo di vita, una forma di vita diversa da quella della maggioranza delle persone, insomma, la forma di vita che la maggioranza delle persone accetta per abitudine, eccetera, eccetera, tutte queste cose qua. La filosofia quindi è rottura delle abitudini, rottura dei discorsi tradizionali e acquisiti, ma non solo nell'ambito del discorso, nell'ambito di tutta l'esperienza. Questo lo dice Diogene, o diceva solo quello prima? Questo l'ho aggiunto io. Okay. Il mio libero commento, allora, Diogene diceva solo, cioè si tramanda questo detto di Diogene. Davvero, davvero colui è un filosofo? Punto di domanda. Come mai, se con tutti i libri che ha scritto, non ha ancora mai turbato nessuno? Questa è la, questa è la... Io poi tutto il resto sono dei commenti miei, ho messo insieme, ho mescolato qualche elemento di Nietzsche, qualche elemento di Foucault, qualche piccolo elemento di Caronia e ti ho detto tutta questa pizza che ti ho raccontato prima. E Diogene si riferiva a... Ah, guarda, non si sa chi, a un filosofo contemporaneo, sembra chiaramente che non era un cinico come lui, dunque cinico, adesso noi diamo al termine cinico un altro, come dire, significato, ma i filosofi cinici erano una scuola filosofica di filosofi che erano stati allievi di Socrate, quindi contemporanei di Platone, no? Diciamo, la filosofia dopo Socrate si divide in tre o quattro grandi, diciamo, filoni, gli stoici, gli epicurei, i cinici, vabbè, insomma, gli scettici, e poi dopo Platone per conto suo, insomma. Sì, lui era megalomane, quindi no, comunque, no, è che cioè, con di Platone è così importante che ci sono rimaste tutte le sue opere, mentre degli altri non c'è rimasto quasi nulla, insomma. E quindi non sappiamo neanche bene che cosa abbiano detto. Comunque questa è tutta la filosofia che è venuta dopo Socrate. Ma insomma, torniamo a, diciamo, Nietzsche. Allora, c'è una critica, insomma, cerchiamo di vedere perché ci interessa per la nostra, perché in pratica questo discorso di Nietzsche, quindi, è una critica, noi potremmo dire, alla società dell'immagine o alla società dello spettacolo. C'è una critica a una società nella quale la socializzazione e la comunicazione dell'esperienza si presentano prevalentemente tramite l'allestimento, la circolazione e la valorizzazione di immagini intese come maschere che si sovrappongono non soltanto alla singola persona, quindi non soltanto la singola persona quando appare sulla scena pubblica, politica, culturale, eccetera, di un paese, non è la persona, non è quella persona, non ha dietro di sé tutta la ricchezza della sua esperienza, ma è una maschera, cioè è la, come dire, l'Apollineo separato da Dionisiaco, in altri termini, può essere realizzato soltanto semplificando grossolanamente la complessità dell'essere umano e del suo mondo e estraendone soltanto quegli elementi che assicurano l'armonia, l'equilibrio, la reciproca compatibilità e quindi appunto ciò che va sotto il nome da Nietzsche in poi, insomma, di carattere apollineo, trascurandone invece tutto il resto, cioè il conflitto, la disomogeneità, la disarmonia, lo squilibrio, che sono tutte cose che poi certamente devono essere, c'è un movimento continuo dall'equilibrio, dallo squilibrio all'equilibrio, ma se lo squilibrio non c'è mai, se io non ho mai da confrontarmi con qualcosa di diverso da me, divento una specie di mostro, anche se apparentemente sono bello, equilibrato, dico le cose che devo dire, mi comporto bene in società, eccetera, eccetera, ma cioè, in realtà sono un mezzo me stesso, forse anche meno di mezzo, perché non ho mai dietro di me la forza, che vuol dire anche l'aspetto dionisiaco. Ecco, quindi c'è una critica dell'Apollineo separato dal, come dire, dionisiaco, che è nella nascita della tragedia, questa è la introduzione di Giuliano Baioni alle considerazioni inattuali, però siccome parla molto della nascita della, diciamo, tragedia, nella nascita della tragedia Nietzsche osserva che nello stato del sogno l'uomo gode della pura figura che gli appare nella necessità della sua forma conclusa, in cui non c'è nulla di superfluo e di insignificante. Tanto che l'uomo si comporta verso questo mondo ordinato della bellezza apollinea come nei confronti delle immagini oniriche, egli sta volentieri a guardare, difeso com'è dall'inferno dell'esistenza della rassicurante distanza della contemplazione. Allo stesso modo il mondo del sogno appare come una sequenza di immagini. Il suo carattere è epico e narrativo, costruito com'è sulla causalità logica delle linee e dei contorni degli splendidi bassorilievi dell'arte greca. E lo stesso Omero è un greco che sogna, e la sua epica è la perfetta vittoria dell'illusione apollinea. Leggiamo un altro pezzo. La staticità dell'immagine armonica, non turbata da elementi asimmetrici o da particolari abnormi ed eccentrici, è la condizione di un'assimilazione razionalistica dei dati dell'esperienza da parte dell'uomo che si pone dinanzi al quadro immobile della natura nell'atteggiamento altrettanto immobile dell'osservatore. Il piacere che deriva dall'osservazione e dalla contemplazione dell'immagine ordinata e conclusa è fondato sul fatto che la natura subisce nell'immagine un'opera di riduzione, che ne consente una percezione razionale, armonica e rassicurante. Questo atteggiamento contemplativo del vedere scientifico, che Nietzsche considera la causa prima della decadenza moderna, è del resto già nell'opera del giovane Herder, che è un tedesco un po' più vecchio anche, cioè un contemporaneo di Goethe, credo, uno dei primi cosiddetti romantici o proto-romantici tedeschi. È molto importante, ma è pochissimo noto all'estero. In Germania è abbastanza usato. Herder, che scrisse un volume di scritti sull'arte plastica, 1769-70. In questi scritti Herder definisce la vista come il più artificioso e filosofico dei sensi dell'uomo. Essa è l'origine della mera bellezza che costringe l'uomo a una fruizione contemplativa dell'opera d'arte e lo relega nel ruolo passivo dello spettatore. Con una osservazione ripresa da Schopenhauer e quindi da Nietzsche, Herder ricorda che la parola, qui c'è un po' di lingua tedesca, la parola Schönheit, bellezza, è connessa etimologicamente con Schauen, vedere. La bestia si chiama dunque bello in tedesco è Schön. S-C-H-O-N, Schön, e la Schönheit è la bellezza. Ora questo deriva, probabilmente è collegato col verbo Schauen, che è guardare, anschauen, guardare qualcosa, Schauen an, e con Schein, riflesso di luce, parvenza. La vista, che vive della luce e della distanza, colloca gli oggetti gli uni accanto agli altri secondo una bella sequenza figurativa, appiattisce la realtà, la riduce alla bidimensionalità di una figura proiettata su una superficie. È quello che ha sempre fatto l'arte figurativa, tradizionale, il disegno, la pittura, eccetera. Prende la realtà in qualche maniera appiattirla. E mentre la realtà è, per chi è privo della vista, fatta di oggetti concreti, perché esperiti immediatamente con il senso del tatto sia reale che anche un po', insomma, la vista quando è combinata con gli altri sensi, no? Con l'udito, con l'odorato, eccetera, non è così, virgolette, pericolosa. Ma quando entri in un museo, devi stare zitto, non puoi parlare con il tuo amico un po', ma non puoi neanche gridare, li guardi. E la vista si separa dal resto, no? E tu che cosa puoi fare in un museo? Stai lì e guardi, non puoi fare altro che guardare. Contempli. E quindi sei ridotto a una... Poi dentro di te fantastichi tutto quello che vuoi, ma il tuo ruolo è un ruolo passivo. Guardare, diciamo, la vista relega l'uomo, quando è staccata dal resto, relega l'uomo ad un ruolo passivo. E mentre la realtà è, per chi è privo della vista, fatta di oggetti concreti, perché solitamente con il senso del tatto, quindi per chi è cieco, certo, il mondo appare al senso della vista come un edificio pieno di immagini che mostrano solo la facciata, mostrano solo ciò che mostra lo specchio, sicché l'intera realtà diventa irreale, si trasforma in una tavola di figure dipinte sulla quale la rappresentazione dell'artista appare come una serie ordinata ed armonica di forme ingannevoli e tutto si fonda sulla parvenza, tutto sulla successione e sulla contiguità, al punto che la più bella pittura è romanzo, è il sogno di un sogno. Quindi, bello, no? Allora, quindi vuol dire che c'è, vedete, con questa critica diciamo, con questa critica di Nietzsche alla cultura moderna, alla cultura delle immagini, quindi alla separazione tra l'Apollineo e il Dionisiaco, si disegna, credo, una come dire, situazione alla quale, attenzione, l'arte per tutto il corso del Novecento tenterà di reagire. L'arte non si è affatto dimostrata insensibile a questi attacchi, ne ha preso atto, ha capito che cosa c'era di giusto anche in queste... adesso non c'è il tempo, ma io per esempio nei corsi di estetica leggo anche alcuni aforismi di Nietzsche sull'arte, contro l'arte delle opere d'arte, come la chiama lui, l'arte delle opere d'arte, no? Per Nietzsche, in qualche maniera, per il Nietzsche più maturo, per il Nietzsche molti anni dopo la nascita della tragedia, l'arte non può essere ridotta alla contemplazione di qualche cosa. L'arte deve essere, diciamo, qualcosa di più simile al linguaggio, cioè qualcosa che sia fare qualcosa, che sia agire, parlare è sempre agire, no? Ora l'arte, dicevo, dalle avanguardie in giù, io credo che sbaglieremmo se pensassimo, no. Se leggessimo. Vuoi una penna? Aspetta, ecco solo. Se no ce l'ho. Sono finita. Ah, ce l'ho. Sai? Allora, dicevo, sbaglieremmo se, credo, se pensassimo che l'unico modo che hanno avuto le arti visive con le avanguardie è stato quello di, come dire, rinnovarsi nel senso di creare dei nuovi modi di vedere, eccetera. No, pensiamo a Dada, pensiamo alla più radicale, quindi alla corrente e alla tendenza più radicale tra quelle, quindi più del cubismo, più certamente forse cubismo e surrealismo erano più, no, scusa, cubismo e futurismo, però anche il futurismo è stata una, a modo suo, una corrente che ha combinato il vedere con il fare, no? Il rinnovamento delle forme con il rinnovamento dell'azione, ma soprattutto Dada ha fatto questo, il futurismo l'ha fatto da destra, principalmente Dada, i Dada berlinesi l'hanno fatto da sinistra, Duchamp l'ha fatto né da destra né da sinistra, ma nel modo più profondo possibile, ma in tutte queste cose noi vediamo che l'innovazione di queste correnti artistiche era un'innovazione che mirava sempre non solo a cambiare le opere d'arte, ma cambiare anche il modo di vederle, cambiare l'atteggiamento dello spettatore, in qualche maniera riuscire a togliere lo spettatore dalla sua condizione di contemplatore passivo, di contemplatrice passiva, e trasformarlo in qualche cosa che sino poi a, appunto, ripeto, Fluxus, sino all'arte interattiva degli anni 80-90, insomma, quando le tecnologie sono entrate nell'arte in maniera magari ingenua, sicuramente a volte stupida, con delle opere d'arte magari brutte, eccetera, ma la cosa era, perché bisogna sempre soltanto guardare? Perché non si può fare nulla? Perché non si può... Ora, il fatto, diciamo, la critica dell'arte interattiva è che spesso l'interattività dell'arte veniva scambiata con andare lì e schiacciare qualche bottoncino. Ora, la vera interattività non è, io credo, la cosa più importante, non è quella che lo spettatore faccia delle cose nell'opera d'arte, dentro l'opera d'arte, ma soprattutto le faccia fuori. L'interattività più forte, l'interattività più vera deve essere quella tra arte e società, tra esperienza, cioè non ci deve essere, diciamo, più una esperienza estetica, nel senso di io sto lì, guardo le cose, oppure io sto lì, magari schiaccio il bottoncino, ma poi esco e faccio tutt'altro. Cioè, come dire, mi dispiace, ma diciamo, il senso e la lezione più profonda delle avanguardie è stata quella di provare a praticare un superamento della spaccatura tra arte e vita. Questa è stata la cosa più interessante e più, come dire, fondamentali. E questa cosa, io credo, sta molto dentro la critica di Nietzsche, è prevalentemente quello, anche se poi guardiamo gli sviluppi successivi della filosofia di Nietzsche, quindi la critica, cioè quello che Nietzsche ha successivamente poi sempre, diciamo, criticato, anche quando ha abbandonato molti dei punti di riferimento che aveva ai tempi della nascita della tragedia, è sempre stato quello che vede la filosofia separata dalla vita. Non c'è una filosofia separata dalla vita, così non c'è un'arte separata dalla vita. Se filosofia, arte, se le attività cosiddette superiori dell'uomo si separano dalla sua esperienza quotidiana, è la fine. E questo Nietzsche lo vede, torniamo alla nascita della tragedia, perché vede in Socrate l'iniziatore di questa cosa? Perché Socrate è quello che separa, no? Come dire, è quello che per primo mostra che cosa può fare la ragione quando lavora assolutamente da sola, no? E la cosa più terribile è, molto probabilmente, non so adesso se Nietzsche lo dica nella nascita o in qualche altra opera, ma sicuramente lo dico io. La cosa più terribile della filosofia socratica, o perlomeno di come Platone ce l'ha tramandata, è la sua concezione dell'etica. Diciamo, il razionalismo, l'astrattezza razionalistica della filosofia socratica e quindi poi di quella platonica, di gran parte della filosofia successiva, si vede dal modo in cui Socrate impostava il problema del bene. Che cosa dice Socrate sul bene? Dice, come si fa a fare il bene? Come faccio a sapere che cosa è il bene, che cosa è il male? Come faccio a fare il bene? La risposta di Socrate non è tanto semplicistica, quanto è, se ci pensiamo bene, è terrificante. Dice, per fare il bene bisogna solo conoscerlo. È una questione di conoscenza. Dicendo questo, che cosa fa Socrate? Subordina tutta l'etica, tutta la morale, tutta la sfera del comportamento pratico dell'uomo alla conoscenza. Basta conoscere il bene per farlo. E chi non fa il bene è per chi fa il male, è perché non sa che c'è il bene, perché non ha pensato a sufficienza, non ha ragionato a sufficienza. Questa idolatria del ragionamento, questa idea che che l'attività della conoscenza sia la cosa più importante degli esseri umani, è veramente disumana, se uno ci pensa. Ma è vero. Ma è vero che la cosa migliore che possiamo fare nella vita è quella di conoscere sempre più cose? E se le nostre conoscenze non ci servono per migliorare la nostra vita e quella degli altri, per vivere più felici noi, per far vivere più felici gli altri, per combattere quello che non ci piace, per combattere le disuguaglianze, per combattere l'ingiustizia, se non facciamo questo, ma cosa ce ne facciamo della conoscenza? Ma perché la conoscenza, in base a cosa dovrebbe avere la conoscenza questo primato su tutto il resto delle nostre attività? E così, a poco, la figura del filosofo è, come dire, diventata questa macchetta, questa caricatura di uno che sta fermo tutto il giorno in casa, seduto, non fa altro che pensare e conosce sempre più cose, o legge sempre più libri, o si informa sempre più sulle cose, e magari crea sempre più concetti, ma che se ne fa di questi concetti? Se poi non li applica nella vita, nella sua vita quotidiana. Se poi la conoscenza, ogni forma di conoscenza e ogni forma di attività, anche di tipo estetico, staccata dalla pratica, è veramente abominevole, insomma. Io trovo che la critica di Nietzsche vada letta principalmente così, cioè come una esortazione a non a non separare, a non essere socratici, nel senso di non pensare che ci sia qualche, ci sia una dimensione, ci sia un senso che è più senso degli altri, che è la vista, che sia, perché in fondo tutto è poi questa storia della conoscenza, è tutta lì, deriva tutto da lì, deriva da una ipervalutazione del senso della vista. Guardare le cose di lontano, ma tenerle lontane, non sporcarsi le mani. Guardare quel tetto coperto di neve, ma non salire su quel tetto a spalarla via la neve. Guardare quella donna così bella per strada, ma non fermarla e dirle ciao, ma come sei bella, dico una stupidaggine, mi rendo conto, però insomma, cazzo, sempre così, cioè tutti, questa, la contemplazione, si contempla la verità, si contempla la bellezza, ma dove? Ma non c'è nessuna verità da contemplare, la verità è qualcosa che nasce dalla nostra esperienza, dalla nostra pratica, dalle cose che facciamo, la nostra verità sono le cose in cui, che noi facciamo con più gioia, con più felicità e con più soddisfazione. Questa è la nostra verità. Questo è ciò che è vero per noi, non ciò che la nostra mente, la nostra ragione, la nostra razionalità. Questa esaltazione, questa sopravvalutazione della poi ragione, cosa ha fatto? Porta a dei mostri. Aveva torto Goya, non è il sonno della ragione che genera mostri, ma è l'insonnia della ragione che genera mostri. E quando la ragione non dorme, non è mia questa, è stata già fatta, questa battuta non mi ricordo chi ha fatto, ma gira da un sacco di tempo. L'insonnia della ragione genera mostri. Che sennò poi credi che sia. Credi che io sia più bravo di quello che sono. Siccome ha girato per tante cose, ma se la cerchi su internet, sì, la cerchi. Però a me pare molto giusta, cioè è l'insonnia della ragione, cioè è l'eccesso di ragione, no? Il fatto di non fermarla mai. La ragione è importantissima, io non dico affatto che non deve essere, io sono uno che ha sempre ragionato nella vita, però sicuramente sbagliando, ho sempre cercato di collegare la mia attività razionale con le cose che ero. Che volevo fare con le cose più o meno pratiche che mi sentivo di fare, poi ne ho fatte di più, di meno nella vita, eccetera. Allora, l'idea che ci sia, e le cose che uno giudica bene o male non dipendono dalla sua conoscenza, non è una questione di conoscenza, non è il fatto di sapere in astratto cosa è bene e cosa è male, è una sensazione molto più profonda quella del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto. È una cosa molto più profonda e principalmente è una cosa collegata con se stessi, è quello che Nietzsche dirà molto più tardi nella genealogia della morale. è ciò che crea soddisfazione a me, è ciò che mi permette, la formula più tarda di Nietzsche poi, è ciò che mi permette di diventare quello che sono, diventare quello che si è. Questa se l'ha detta Nietzsche, diventare ciò che si è. Che cosa vuol dire diventare, diciamo, ciò che si è? Intanto che ciò che si è non è immutabile, non è dato una volta per tutte. Noi cambiamo nella vita e quindi diventiamo ciò che siamo perché siamo ciò che diventiamo. Si può anche, diciamo, questa è mia, non è di Nietzsche, siamo ciò che diventiamo. Perché si può anche rovesciare questa, come dire, formula. Però in qualche modo c'è qualcosa alla quale noi possiamo, se vogliamo, essere fedeli. Ed è la nostra ricerca. Ma la nostra ricerca non può essere, non deve essere soltanto intellettuale. Perché se è soltanto intellettuale, noi, come dire, ci confiniamo ad una vita arida. Attenzione, e poi soprattutto ci abituiamo facilmente a due morali diverse, no? Perché se ciò che se ciò che conosciamo lo teniamo separato dal resto della nostra vita, esattamente come fa il borghese, come faceva il borghese normale, perché Nietzsche ce l'ha con l'arte delle opere d'arte? Perché dice si va nei musei, si va nelle gallerie d'arte, eccetera. Questo borghese normale, questo personaggio, insomma, diciamo, il borghese guglielmino dei suoi tempi, dell'epoca di Bismarck, eccetera, insomma, ma si può dire così per tutta la, anche per gli uomini, anche per gli esseri contemporanei, anche se ora non c'è più il borghese, non c'è più, ma insomma tutti, allora tutti quelli che vanno lì, guardano le opere e dicono ah che bello, contemplano la bellezza, contemplano le opere d'arte e si sentono migliori, ma di questo, di quello che hanno visto nelle opere d'arte, se ne fanno qualcosa per il resto della vita? No. In tutte le altre attività della loro vita, la visione di quel quadro non ha alcuno spazio. Non c'entra nulla ciò che hanno visto nel quadro da ciò che fanno in ufficio. In ufficio applicano un'altra razionalità, un'altra visione del mondo. Allora è come avere due pesi e due misure. Invece, come dire, la cosa che ci arricchisce, la cosa che ci fa diventare ciò che siamo, se noi facciamo così, cioè se noi teniamo separato tutto quello che c'è nella nostra vita, noi diventiamo ciò che non siamo. Però dopo un po' lo siamo, perché però diventiamo ciò che non siamo, non diventiamo ciò che siamo. Per diventare ciò che si è bisogna essere in grado, nel modo, ci sono 10.000 modi per farlo, non c'è un modo unico, questa è la ricchezza degli esseri umani, ma dobbiamo applicare in tutti i campi della nostra vita ciò che abbiamo imparato, ciò che abbiamo visto, ciò di cui abbiamo fatto esperienza negli altri campi, insomma. Perché se non facciamo questo, facciamo due pesi e due misure. E allora la conoscenza rimane qualcosa di astratto, qualcosa di separato dal nostro, dalla nostra esperienza, e non diventa una forza attiva nella nostra vita. La nostra vita viene plasmata da altre cose, da altre forze che non siamo noi, e quindi noi possiamo dire diventiamo ciò che non siamo, diventiamo ciò che la società vuole che noi siamo, diventiamo quel ruolo sociale che in qualche maniera ci ha dato. Invece noi dobbiamo costruirlo noi, il ruolo sociale. Il nostro ruolo sociale deve essere nella ricchezza delle relazioni che riusciamo a realizzare con gli altri esseri umani e negli strumenti. Certo, più strumenti abbiamo conoscitivi e più siamo ricchi, e quindi maggiori possibilità abbiamo di rapporti umani e siamo ricchi, ma la cosa fondamentale non è la quantità di cose che so, sono i rapporti umani, sono le relazioni umane, sono la mia soddisfazione, sono il sentirsi bene, insomma, sono non so come diavolo dirlo, insomma, ma questa è la cosa fondamentale. Se non abbiamo capito questo, possiamo essere gli uomini più sapienti del mondo, ma continueremo e saremo sempre i più cretini e forse anche i più infelici. Basta, basta, basta. Mi sono fatto prendere la mano.